l'amore non nasce su un istinto sessuale, non esiste un istinto sessuale, esiste un orientamento sessuale di tipo biologico che apre a una opportunità, la chiamerei così, di incontro con l'altro attraverso quella relazione assolutamente comune, costitutiva tra l'uomo e la donna, che mette sempre in campo un elemento di tensione al compimento attraverso la reciprocità, che però proprio perché esalta il volto bello dell'altro è diffusiva e quindi è sempre anche orientata ad un dinamismo di fecondità, sempre mette in gioco il terzo. Ora, il riferimento che io faccio alla Trinità è lì per documentare questa realtà a tre, cioè per documentare il posto del terzo che sta sempre dentro in ogni relazione. Ma al di là di questo riferimento a un mistero cristiano, ognuno di noi può capire nella sua vita che quando scatta il rapporto di amore autentico tra l'uomo e la donna, tutte e due queste dimensioni, la dimensione dell'unione e della complementarità reciproca, che tende a diffondere bellezza, che tende a diffondere amore, entra in campo. Quindi bisogna, diciamo, una verifica dell'amore vero sta nel fatto che i due sono capaci di far spazio all'altro oltre loro due, esattamente come l'inizio di questa verifica dell'amore vero è che io, amando, sono realmente capace di amare l'altro di un amore che libera e non di un amore che lega, di fare realmente spazio all'altro. In questo senso si capisce perché noi parliamo di bell'amore, perché l'amore è bello proprio perché la bellezza comunica se stessa. Bonaventura ha un'espressione molto bella, dice che colui che si sente amato da Dio e che ama Dio, dice la dico in latino, pulcrificato, cioè è reso bello. Ecco, il compito dell'amore è rendermi bello. Un uomo e una donna che si amano devono fare l'esperienza di questa bellezza, e questa bellezza per forza di cose è orientata al terzo, tende a diffondersi.